Parlavamo di The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, un titolo così, il primo che ti viene in mente, dillo e lo facciamo. Album del 72 di David Bowie, nel quale appunto si parla di questa rockstar denominata Ziggy Stardust. Ma a chi era dedicato, a chi era ispirato alla figura di Ziggy Stardust? Forse, come ipotizzato dalla soluzione A, a Elvis Presley? No, non ci siamo. Forse no. Ziggy Stardust era David Bowie stesso? Ma naturalmente, era il suo ritratto. Ricordiamo che era talmente autobiografico questo album che in un periodo addirittura le due entità divennero pressoché indistinguibili. David Bowie si presentava a nome di Ziggy Stardust. Il successo dell'album in parte è anche dovuto a quest'aurea che si creò intorno al personaggio di Bowie barra Ziggy, aura che tenne per anni prigioniero il suo creatore, tanto da indurlo ad ammazzare la sua creatura, annunciandole il definitivo ritiro nello storico ultimo concerto dello Ziggy Stardust Tour all'Hammersmith Odeon di Londra nel 73, dove Bowie uccise Ziggy Stardust e tornò il David Bowie che conosciamo tutti. Sì, per liberarsi di questa ingombrante doppia figura di se stesso, Ziggy Polvere di Stelle, che aveva come complici i ragni da Marte. Sì, The Spiders from Mars. Interessante, interessante. Roba buona girava nel 72. Sì, sì, e lui aveva degli spacciatori interessanti, secondo me, con il massimo rispetto per il grande Duca Bianco. Segnaliamo che non era John Lennon come ipotizzato dall'ipotesi C. Bravi se avete azzeccato. Se avete dato risposta sbagliata, restate comunque in contatto. Farete meglio la prossima volta. Ziggy played guitar, jamming good with Weird and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang up eyes and screw down hairdo like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. They came on so loaded, man, well hung a snow white tan. Time jiving us that we were voodoo. The kids were just crass. He was the Nas with God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar. Ziggy Stardust, ultima mezz'ora di pane, burro e rock and roll. Qui c'è l'Ariele. Freak Spadino, Isaac Rizzi e la nostra redazione, ma soprattutto tutti voi. È qualche puntata che tormentone di questa ultima mezz'ora è la piccola Lucrezia, che fa spegnere la radio a Lorenzo per guardare gli antenati in televisione. Ci segnalano, è fatta, Lucrezia è diventata rock. Ciao Lucrezia, benvenuta. È molto meglio ascoltare Rock FM. Anzi, sai lo sballo totale cos'è? Ascoltare Rock FM e guardare gli antenati senza l'audio, perché fanno ridere un sacco. Facciamo noi i suoni degli antenati, va bene. Chiuso questo capitolo, un saluto doveroso al patentato 1166, detto saltatempo. Mi scrive via SMS: ciao Ariele, sono a scuola. Il preside mi ha relegato per 2 ore nell'aula del castigo perché sono entrato un quarto d'ora in ritardo. Meno male che ci siete voi a farmi compagnia, se no tentavo il suicidio con la squadretta. Ho cercato di contattare telefonicamente il patentato 1166 perché sono curiosissimo di scoprire cosa succede nell'aula del castigo per 2 ore, ma mi ha attaccato in faccia e sono stato anche contento di questa cosa, perché se nell'aula del castigo puoi sentire Rock FM e rispondere pure al telefono, c'è la pacchia, capito? Uno ci si tufferebbe anche apposta. E con queste immagini del radioascoltatore saltatempo probabilmente inginocchiato su dei ceci, che vado a leggere un altro messaggio che ha dell'inquietante, perché a volte c'è un legame tra quello che sta per accadere in radio e quello che mi scrivete voi che ha del paranormale. Mi scrive un amico di Milano: vi informo che la mia nipotina Giorgia, di 3 anni e mezzo, sa a memoria You Shook Me All Night Long degli AC/DC, e quando la canta prende in mano la scopa tipo chitarra e fa il passo di Angus Young. Sua mamma dice che che faccio male a insegnargli queste cose perché è piccola. Adesso vi sta ascoltando, ditegli qualcosa. Giada! No, scusa, Giorgia! Resta qui perché tra pochissimo facciamo sentire una cosa riguardante You Shook Me All Night Long che ha dell'incredibile. Abbiamo scoperto un personaggio che pubblica i suoi video su YouTube. Frick, vieni qua che te lo devo far vedere anche a te. Il personaggio della svolta. Restate con noi, ve lo presentiamo tra pochissimo. Anche a Giorgia. Vedrai che svolta, Giorgia. Spadino, riusciamo a collegare YouTube con il microfono? Dai che ce la facciamo. Dai! I am a passenger, and I ride through the city backsides. I see the stars come out of the sky. Yeah, the bright and hollow sky. You know it looks so good tonight. Stay under glass. I look through my window so bright. I see the stars come out tonight. I see the bright and hollow sky over the city's ripped back sky. And everything looks good tonight. I sing la. We'll ride through the city tonight. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A stars made for us tonight. How he rides. Oh, the passenger. He rides and he rides. He looks through his window. What does he see? Caro Frick, tieniti veramente forte perché ho da farti vedere una cosa che ti farà sbarellare. Spiace non avere uno schermo televisivo, abbiamo solo un e microfono. Mostrare. Però ti chiedo la gentilezza di guardare in questo schermo del computer. Sento aria di grande novità. Abbiamo scoperto un genio, un eroe, segnatevi questo nome, si chiama Jerry Phillips, ha 38 anni e su YouTube pubblica questi filmati dove suona, sa che noi parliamo dei musicisti rock con la bocca? Sì, certo. Di che tra i Led Zeppelin col casù, questo mi suona scorreggiando con le mani. Con le mani? Cioè facendo le così che non le viene. Le pernacchiette con le mani. Così, guardi, provo anch'io. Ecco, come se non bastasse, il nostro eroe Jerry Phillips mi suona anche dei classici del rock. Quindi, come non sposare la sua causa, io sono pronto a farle vedere questo filmato. Mi dia qualche informazione, è giovane, anziano? Ha 38 anni. Ah. Senta come mi suona gli AC/DC. Sono pernacchie con le mani. Lei non ci credeva, eh? Descriva l'immagine, se se la sente. La descriva. Sembra un signore normalissimo. Un signore normalissimo seduto sul divano, peraltro normalissimo. Cheap anche un po' economico, di casa sua. Che suona gli AC/DC. Senta. È quasi intonato, quasi perfettamente intonato. Vedo che ha le mani incrociate, quindi tenendo le mani incrociate lui produce questi suoni. Si chiama Jerry Phillips e lo stiamo guardando da internet, potrete gustarvelo anche voi digitando Jerry Phillips and the Musician. Senta, ritornello. Perché ha un'estensione quasi, impressionante. Quasi perfetto. Qualche leggera imprecisione, ma per il resto. Tra l'altro, a parte il divano decisamente cheap, ci sono anche un paio di casse audio che gli permettono di sentire la base. Lui la sta suonando con le mani. Io so che i radioascoltatori non ci credono, ma è così, ve lo garantiamo. Jerry Phillips. Sì, posso confermarlo. Non vedo l'ora che arriva da solo. Vende anche un suo DVD, questo signore, che si intitola And Musician, musicista con la mano. Ritornello. You shock me all night long. È veramente impressionante. E le dico con le mani, con le mani. Che questo non sarà l'unico intervento, mio caro Frick, perché Jerry Phillips ne ha suonate a tonnellate di canzoni. Forse arriviamo là solo, eh? Dovrebbe essere qui. E faccia a faccia. Molto, molto preso, molto compreso nel ruolo. Però resta comunque nella parte, non si lascia andare. Grande hand musician, musicista con le mani. Ma senta fin dove arriva. Sale tantissimo in alto, sempre più in alto, sempre più acuto. Insomma, che voi ci crediate o meno, vi diamo questo consiglio: digitate sui vostri computer Jerry Phillips e usciranno fuori questi capolavori. Quest'oggi ci siamo gustati You Shook Me All Night Long nella versione non degli AC/DC ma di Jerry Phillips, 38 anni, musicista con le mani. Frick, le abbiamo presentato un genio. M'inchino di fronte a tanta perizia. Dopo avervi presentato i musicisti con la bocca, adesso musicisti con le mani. Bravo Jerry! About it. Ain't no real big secret, all the same. Somehow you get. in quanti già ci imitano DJ Ariele. Lo so, in televisione, pane pure rock and roll, è già copiata alle radio, alle televisioni, sì. Ma perché la barzelletta è il primo passo, sì, ho capito, per comprendere appieno l'umorismo, la comicità. Non scusi, me ne voglia, non me ne vogliano appieno. Sì, no, sputi quando vuole, non me ne voglia la televisione e quant'altro, ma Roberto Fricantoni ce lo abbiamo solo noi. Grazie. E grazie. Quando si parla di Roberto Fricantoni come comico, lei, me lo lasci dire, c'ha due palle così. La ringrazio, la ringrazio. Non avrei saputo dirlo meglio, anzi, grazie per averlo detto al posto mio. Che dire? Ma trovo contenta di questa rubrica. Ma sì, perché mi diverte. Sull'umorismo, sulla comicità e soprattutto su The First Step, il primo passo. The First Step. Inoltre, c'è da dire che l'umorismo aiuta a vivere meglio, è positivo. Oh, l'umorismo ci dà la carica per affrontare la giornata. Ricordo che abbiamo anche un intervento dalla regia, certo, che lei mi analizza a nome per conto di Brian non ho ancora capito chi è. Lo studente è un giovane studente praticante del corso di umorismo e comicità applicata di via Marzabotto a Bologna. Naturalmente, sì, io non volevo dirlo, ma ha fatto bene a dirlo. Il cerco corso è semi gratuito, poi ne parliamo. Cerco uno sguardo d'intesa con il nostro regista Spadino. Possiamo andare con l'intervento di quest'oggi. Sentiamo la barzelletta. C'è un elefante che torna a casa tutto sudato, tutto affaticato dopo una corsa, apre il frigorifero e vede che ci sono solo delle Coca-Cola e dice: elefante? L'è piaciuta, ma no, maestro, si tratteggia. Elefante? Sì, elefante. Elefante. Voleva le Coca-Cola. È una grande battuta, questa è una comicità linguistica, sì, è vero, etimologica. È vero. Elefante. È un gioco di parole. Un gioco di parole, molto bene. Detto volgalmente, gioco di parole, poi approfondiamo. Un divertissement linguistico, sì. Un calambur, un gioco di parole. Molto ben riuscite, innanzitutto, cioè, fa ridere già, anche lei si è sbellicato. Sì, abbastanza. Non troppo. Non però, però lei deve figurarsela questa battuta, deve entrare dentro lo spirito della barzelletta. Deve entrare insieme. Io ci entro. Insieme all'elefante nella sua casa. E già questo è esilarante. Beh, sì. Che un elefante abbia la casa col frigorifero. No, effettivamente. E poi come fa a aprire un frigorifero un elefante? Non ha le mani. Sai che mi fa più ridere adesso che me lo sta dicendo. E soprattutto, che se ne fa della Coca-Cola un elefante? Esatto, vuole l'elefante. E poi c'è anche un richiamo, vero, molto sfumato, molto delicato, molto ben fatto. Cosa? Sul sesso. Come? Ecco, accennata. No, cioè, ma dove? Elefante, l'elefantessa. Un richiamo sensuale, anche vagamente sensuale. Era bellissimo, incredibile. Grazie maestro per gli insegnamenti di quest'oggi, fenomenale, divertentissimo. La smetta, grazie. Fantastico. Somewhere to go, but won't you make yourself at home and stay with me? And don't you ever leave. Lay down, Sally, and rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, Sally, no need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you. Got the moon and stars above. Underneath the velvet skies, love is all that matters. Won't you stay with me? Don't you ever leave. Lay down, Sally, I'm resting in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, Sally, and no need to Could you go and say goodbye? You can lay your worries down and stay with me. Don't you ever leave. Straight down, Sally. And rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, Sally. Eric Clapton, all night long just to talk to you. Allora, visto l'incredibile successo riscosso da Jerry Phillips, vi segnalo, lasciateci qualche minuto e pubblichiamo il video che ci siamo appena guardati insieme alla radio, lo pubblichiamo sul nostro spazio, quindi myspace.com/paneburrofm, andate lì che ci vedete il video che vi abbiamo presentato stamattina di You Shook My All Night Long, suonato, scorreggiando con le mani, come è giusto che sia per noi di Pane, Burro e Rock and Roll. Puntata 177 che volge al termine. Questa è la fine, mio caro amico, è veramente la fine. Appuntamenti del weekend: venerdì sera mi troverete con Max De Rieu all'Oblivion, serata Switch, Montelupo Fiorentino per gli amici toscani, mentre sabato sera la folle notte dell'Atomic Bar qui a Milano. Se volete mi trovate appunto questo sabato, questa volta all'Atomic con l'Operaio del Rock and Roll. Non esco mai da solo io, sempre male accompagnato. Venerdì con Max e sabato con l'Operaio del Rock and Roll. La puntata di oggi la troverete su RadioRockFM.com e ricordo myspace.com/paneburrofm, ci potete vedere anche il video di Jerry Phillips. Pane, burro e rock and roll. Saluto di nuovo il radioascoltatore in castigo. Resisti, adesso ti tiene compagnia Garavelli. Pane, burro e rock and roll. Noi torniamo domani dalle 7 alle 9 del mattino in diretta qui su Rock FM. E dove se no? Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. È un piacere passare il microfono al collega Marco, che per l'appunto vi terrà compagnia fino al mezzodì. Esatto. Com'è Garavelli stamattina? Si va. In forma? Sì, sì. Sta tornando il bel tempo, sembra, eh? Sembra. No, vedo freddo, il sole. Mattina abbastanza freddo. È eh? Freschino. La macchina che sembra. La merla sta arrivando adesso, Non era arrivato. Cosa i giorni lì? Della merla. Ah. Ma sono già passati. Sono passati, ma erano caldi. Di solito sono freddi. Mi sa che si è spostato. Perché non c'è più. Non ci sono più le mezze stagioni. Dicendo tu, questo. Non ci sono più le mezze stagioni. Queste frasi fatti le utilizzi tu. La domanda di quest'oggi di un radioascoltatore era: ma perché i termometri di Milano danno tutti una temperatura diversa? Dove li vedi? Quelli esterni, quelli in giro, posizionati quelli sugli orologi. Ma è vero quello. E sono sempre diverse. Sono tarati in un modo, non lo so. Tu che un po' ci tieni alla temperatura esterna, su cosa ti basi? La macchina c'ha il coso? Sì, ce l'ho. La mia no. Sì, ce l'ha, ce l'ha. E però non è mai uguale, uguale a quello, quello fuori. Mai. Va bene. Buona giornata. Grazie, ciao. Ehi, Rugna, hai mai riflettuto sul significato dei nostri nomi? Se posso essere sincero, no. Dovresti pensarci. Il mio nome viene da un elettrodomestico. È pieno di roba buona da mangiare, portando quindi un significato di opulenza e felicità. E in più, fa rima anche con figo, frigo, figo. Il tuo, invece, è il nome di una malattia e fa rima solo con fogna e con scarogna. A ognuno quel che si merita. Sei crudele, frigo. Io invece penso di meritarmi il nome che porto, perché sono cattivo dentro, sono terribile, sono arrabbiato come solo un vero punk. Io sono punk e non sono un ciccione pieno di schifezze da mangiare come te. E allora regni la rogna, regni la rogna, regni la rogna, regni la rogna. Che bel gioco di parole. Regni la rogna. T'ho fregato, frigo, t'ho fregato, t'ho fregato. Regni la rogna, t'ho fregato.